Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, sempre in diretta dall'Expo di Milano al padiglione Cibus e Italia, e parleremo oggi anche del rapporto tra industria agroalimentare italiana e mondo bancario. È un altro tassello che manca in questo viaggio che stiamo compiendo in Grecia, permettendo nell'industria agroalimentare italiana in occasione dell'Expo. Poi Radio 24 sarà di nuovo presente con i vari programmi a settembre, sempre qui dal padiglione Cibus e Italia, speriamo con meno caldo, perché insomma, obiettivamente la settimana dal punto di vista meteorologico non è stata delle più azzeccate. Allora, per quello che riguarda la Grecia, tanto andiamo subito a tagliare la testa al toro, oggi poche novità per fortuna, nel senso che tutto lo sguardo e l'interesse è rivolto a lunedì prossimo, o meglio alla sera di domenica, quando dovrebbero iniziare a esserci già i risultati in uno spoglio che si pronuncia abbastanza veloce. Oggi il ministro alle finanze, come già vi hanno raccontato i nostri GR24, il ministro alle finanze greco, ormai famoso come una star, Varoufakis, ha detto: beh, insomma, se dovessero vincere i mi dimetterò. E il tema è che questa è una non notizia, perché per come il governo Tsipras ha posto le modalità e il significato di cui sta riempiendo questo referendum, è chiaro che è un referendum anche e soprattutto sulla politica adottata dal governo Tsipras stesso, non solo su un accordo che ormai è saltato, per cui si andrà eventualmente a rinegoziarne un altro. Varoufakis ha detto: non firmeremo nessun accordo senza la ristrutturazione del debito, chiarendo che il sì e no è su questo. Le banche apriranno regolarmente martedì e nel frattempo il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha annullato la sua visita di Stato a Berlino con il presidente tedesco Joachim Gauck. La visita era in programma per lunedì prossimo. Nel frattempo dall'Europa arrivano dichiarazioni. Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha detto: beh, se voteranno no i greci, se vinceranno i no, sarà incredibilmente difficile mettere in piedi un nuovo piano di salvataggio, che è come dire: votate sì se volete che vi sia un nuovo piano di salvataggio, e adesso i greci scelgono il loro futuro, noi aspettiamo il risultato del referendum e lo prenderemo in considerazione. Quindi, come avevamo facilmente previsto, tutti i tentativi, anche ieri un po' di confusione, di arrivare a un accordo in extremis ieri e soprattutto l'altro ieri, sono falliti nel momento in cui, da un lato, venerdì sera scorso la Grecia ha annunciato il referendum, ma dall'altro Angela Merkel ha chiarito che la Germania non si siederà a nessun tavolo delle trattative prima del referendum. Ripeto, per la terza volta, la posizione sembra più che ragionevole. Questa volta è innegabile che la Germania e chi l'appoggia abbiano ragione, nel senso che a questo punto hai voluto il referendum, fai il referendum e vediamo cosa esce dall'esito referendario. Parleremo comunque di Grecia, perché c'è la nostra inviata Valeria De Rosa che sta raccogliendo varie testimonianze, anche perché un conto è raccontare la Grecia dal punto di vista delle relazioni diplomatiche, di politica economica, delle trattative, altra cosa è raccontare la Grecia nella vita quotidiana. Per quello che riguarda i mercati, oggi la giornata non è né brutta come per quello che abbiamo visto a inizio settimana, ma sicuramente è una giornata negativa, meno 1,31% Milano, mentre per quello che riguarda gli altri listini segnaliamo che Francoforte perde lo 0,80%, Parigi lo 0,90%. A casa nostra vanno in realtà male non tanto i titoli bancari, quanto Moncler meno 3,50%, Autogrill meno 3%, Finmeccanica meno 3%, Ferragamo meno 2,80%, quindi il lusso oggi sotto pressione. Ancora per quello che riguarda i titoli, A2A meno 2,50%, Ubibanca meno 2,50%, Pop Milano meno 2,40%, Intesa meno 2,30%, il Banco Popolare perde il 2,1% e Mediobanca il 2%. Dimenticavo Unipol Sai che perde il 3,30% in questo momento in borsa. L'euro sul dollaro adesso è a quota 1,11, quindi sostanzialmente stabile. Devo dire che la non notizia o l'elemento di minor novità in questi giorni è stato proprio l'euro, che si è mantenuto sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro, sebbene sia sceso anche 1,10 come segnalava questa mattina in apertura Sole 24 Ore. Si sconta l'incertezza della Grecia. Le novità sul fronte italiano sono soprattutto per Telecom Italia, perché si è saputo che da comunicazione della Consob che JP Morgan, la banca d'affari americana, detiene a questo punto quasi il 7%, 6,997% del capitale di Telecom Italia, il che fa della banca d'affari americana il secondo azionista in Telecom Italia dopo i francesi di Vivendi. Di positivo oggi, visto che citavamo Telecom Italia, il titolo è debole, meno 1,50%, di positivo invece c'è Saipem più 2,31%, Snam più 1,30% ed anche Enel Green Power e Mediaset che guadagnano lo 0,30%. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi c'è la pagina come sempre di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, visto che parlavamo di borsa, c'è una notizia interessante, se vogliamo, oggi, che riguarda la borsa di Shanghai. La borsa di Shanghai si muove su tanti elementi, ma non certo sulla vicenda greca. Però è letteralmente crollata questa mattina, meno 6%. Se non avessimo avuto la Grecia come tema principale, ci saremmo anche occupati, mi prometto di rifarlo, della situazione in Cina. La Cina è preoccupata per un'Europa che rischia di impantanarsi, si è già impantanata sulla Grecia, anche perché ha una certa difficoltà nel mantenere i tassi di crescita a cui è abituata quest'anno. Nel caso specifico la borsa di Shanghai è crollata del 6% sui minimi da tre mesi, nei timori che le mosse del governo per arginare la bolla speculativa possono essere inefficaci. Questo nonostante Tokyo, per esempio, abbia chiuso in rialzo dell'1%. Praticamente Shanghai ha azzerato il recupero di ieri. La cosa interessante è che da metà giugno la borsa di Shanghai ha perso il 25% del suo valore. Sapete quant'è? È pari a tutto il valore della borsa di Parigi, questo per dare anche il senso delle proporzioni, 2,4 trilioni di dollari. Sì, sembra una cosa da paperone dei paperoni, sarebbero 2.400, ho capito, sono quelli, milioni di dollari. Il valore più dicevo che vale da sola questa perdita come l'intero valore della borsa di Parigi. Buoni dati invece che arrivano dagli Stati Uniti, che continuano a creare posti di lavoro, 223.000 nuovi posti di lavoro. Le attese erano leggermente superiori, ma insomma la disoccupazione in America è scesa al 5,3%, ossia il livello più basso dall'aprile del 2008, da prima che scoppiasse il crack Lehman e la crisi deflagrasse. Non è che voglio fare la stessa battuta ogni volta, però questa è la differenza tra l'approccio che hanno seguito gli Stati Uniti a questa crisi: pompare liquidità nel sistema, abbassare i tassi di interesse, garantire liquidità alle banche, stampare moneta a botte di 140 miliardi al mese per anni e far ripartire e fregarsene, tra virgolette, del deficit e di un po' di inflazione. E invece la politica che ha seguito l'Europa, trazione tedesca, tutta l'opposto: austerità, tenere sotto controllo l'inflazione che manco c'era, e metterci anni finché non ha dovuto insistere Mario Draghi per dare una forma di garanzia al sistema bancario e iniziare a stampare moneta, che abbiamo iniziato a fare solo quest'anno. Ecco, le differenze stanno proprio nei tassi di disoccupazione europei, in molti paesi a record e comunque a record dal 2001 in poi, e l'America che invece è tornata sui livelli di disoccupazione, ma perché la Federal Reserve come obiettivo ha l'occupazione, la BCE e i paesi che ne appoggiano l'ortodossia ha come obiettivo solo la stabilità dei prezzi. Poi uno potrebbe fare la battuta che se ne fa un disoccupato di un'inflazione bassa quando è disoccupato, meglio avere un po' di inflazione e un lavoro, ma questo abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi, ma fa parte di un meccanismo proprio di riflesso pavloviano tedesco e non solo. Oh, l'agenzia di rating Standard & Poor's oggi dà le probabilità di un'uscita della Grecia dall'euro. Fa un po' ridere però, perché insomma, se devi pubblicare un comunicato per dire, come agenzia di rating, che la possibilità che la Grecia esca dall'euro sono al 50%, ma fai uno sforzo di 51 da una parte, 49 dall'altra, che 50% è veramente pilatesco. Siamo capaci anche noi di dire, beh, quante possibilità ci sono? Va al 50%, una su due. E aggiunge cose assolutamente inarrivabili, per esempio gli effetti dell'eventuale uscita della Grecia saranno gravi per la Grecia ma contenuti per l'area euro. Tuttavia, continua la Standard & Poor's, l'eventuale uscita del paese dall'euro dimostrerebbe la non irreversibilità della moneta unica, mettendo in dubbio le assunzioni su cui si sono rette le politiche economiche degli ultimi 20 anni. Questo avrebbe conseguenze di lungo termine difficili da prevedere, ma va? Ma guardate, nella vita, se non si sa che cosa dire o si deve dire delle banalità che raccontiamo anche noi in questi giorni, ma è meglio star zitti, no? Ecco, più interessante il calcolo che fa Standard & Poor's di quanto costerebbe all'Italia un'uscita della Grecia dall'euro in termini di aumento dei tassi di interesse, e cioè il fatto che lo spread ripartirebbe e che i nostri creditori vorrebbero interessi più alti per finanziare il nostro debito. L'uscita della Grecia dall'area euro costerebbe a noi più che a tutti gli altri paesi dell'area euro, nel senso che il conto complessivo che fa Standard & Poor's di tassi di interesse più alti per 30 miliardi nell'area euro. Invece per l'Italia potrebbe arrivare la cifra 11 miliardi, cioè quindi l'aumento più grande all'interno dell'area euro come conto complessivo di maggiori tassi, di maggiori interessi da pagare. Poi in Grecia sono già al balletto dei sondaggi, c'è una società di ricerca, di sondaggistica che si chiama GPO, che vedeva in vantaggio i sì, il 47% contro i 43%, e no, ora sapendo quanto ci hanno azzeccato le società di sondaggi sia prima che con gli exit poll in Italia, la voglio vedere in Grecia. E infatti la GPO ha smentito poco dopo di aver fatto quel sondaggio. Non ho mai fatto quel rilevamento, sostiene la società, non si capisce chi l'abbia fatto. Comunque mi sembrano appunto quisquiglie rispetto al tema finale. Oggi il ministro dell'economia italiana Piercarlo Padoan, intervenendo a un convegno di Intesa San Paolo, è tornato sul tema dell'austerità e ha detto, insomma, l'austerità è un falso problema, la domanda vera è come si fa a accelerare la crescita e i posti di lavoro. La domanda vera non è se ci voglia più o meno austerità in questo o quel paese o in Europa nel suo complesso. La domanda vera è come si fa veramente in pratica a accelerare la crescita e la creazione di posti di lavoro. Questa è la domanda vera ed è anche molto più difficile da rispondere rispetto alla questione dell'austerità, che è un falso problema. La crescita non viene con bacchette magiche, soprattutto in una fase come questa. È il risultato di una politica complessa che deve far leva di tutti gli strumenti a disposizione. E su questo poi Padoan è andato nello specifico e ha individuato, ha illustrato le tre iniziative del governo che dovrebbero portare a maggiore crescita. La finanza per la crescita. Qui, se vogliamo, l'idea che c'è dietro di complementarietà è abbastanza semplice. La ripresa necessariamente deve passare per più investimenti. Gli investimenti, come tutti sappiamo, sono la grandezza che più ha sofferto per la crisi finanziaria. Gli investimenti privati e anche pubblici sono caduti in misura molto più proporzionale che proporzionale al reddito, devono riprendere. Ma è un punto importante proprio perché trovo decisivo il fatto di non lasciarsi andare alle scelte facili, sì o no. Le scelte sono complesse, ma vanno fatte tutte, perché solo in quel modo i risultati che si ottengono non sono temporanei, non sono effimeri, ma sono duraturi. Con questa idea in mente, il governo si è mosso, si sta muovendo con misure, lasciatemelo dire, ad ampio spettro per sostenere il sistema bancario. Comincio, ricordo, sono tutte cose note, ma fatemele ricordare, le ultime decisioni prese dal Consiglio dei Ministri di una settimana fa, che vanno sotto il nome di giustizia per la crescita, di vista della finestra di opportunità. Ricordo che sono state prese misure di riforma strutturale per il sistema bancario con la riforma delle banche popolari, che da segnali che si osservano sta cambiando per il meglio il quadro nel quale gli istituti di credito si muovono. E quindi riduzione delle imposte, staremo a vedere sul lavoro, finanziando i tagli delle imposte con tagli della spesa, spending review, riforme strutturali e finanza per la crescita. Sulle riforme strutturali dobbiamo capire ancora meglio. Detto ciò, siccome al convegno appunto di Intesa San Paolo era presente anche il numero uno, l'amministratore delegato alla banca, Carlo Messina, il quale ha ricordato come quest'anno Intesa San Paolo potrebbe erogare a famiglie e imprese più dei 37 miliardi di euro di nuovo credito a medio e lungo termine che si è prefissa come obiettivo. Sempre Messina ha aggiunto anche che nei primi sei mesi dell'anno Intesa San Paolo ha erogato 19 miliardi di euro, ecco perché potrebbe arrivare a fine anno a superare i 37 miliardi. Per accelerare anche e facilitare l'erogazione di credito c'è anche un accordo con la rappresentanza della piccola impresa di Confindustria. Comunque sentiamo prima di tutto Carlo Messina, intervistato dalla nostra Anna Marino. Dal punto di vista dell'erogazione del credito, noi stiamo veramente accelerando in misura mai fatta nel passato. Abbiamo erogato 8 miliardi di euro nel primo trimestre e 11 miliardi di euro di credito a medio e lungo termine nel secondo, sono 19 miliardi di euro in un semestre, che credo sia un record anche per l'attività della banca. Dal punto di vista della relazione con le imprese, in particolare a me interessa enfatizzare il progetto quello sulle filiere, dove noi riteniamo che una filiera possa trarre vantaggio dal far parte di un gruppo di aziende con un'azienda leader che porta i suoi benefici su tutte le altre partecipanti, su tutti i fornitori, e questo è un altro degli elementi distintivi fortissimi della nostra banca. Ecco, filiera che cosa vuol dire per voi e che cosa vuol dire questo accordo con la piccola e media impresa di Confindustria? Sì, no, filiera significa che siamo in grado di poter garantire a tutti gli aziende fornitori di un'azienda importante, che quindi è il leader della filiera, le stesse caratteristiche di rating e migliorare quindi la nostra capacità di dare credito e anche le condizioni economiche che diamo a queste aziende, e gli importi in gioco possono arrivare fino a 15 miliardi di euro su questo, quindi parliamo di altre cifre molto significative, e noi pensiamo di essere realmente l'acceleratore dell'economia reale in Italia oggi. Ecco, in questo momento ci sono anche dei segnali positivi, quindi voi in questo momento volete anche partecipare a questi segnali di ripresa? No, assolutamente, i segnali sono molto positivi sia sul miglioramento della qualità del credito, cioè la riduzione dei flussi di credito deteriorato, miglioramento dal punto di vista dell'erogazione del credito, ma anche miglioramento dal punto di vista delle condizioni del risparmio degli italiani, perché con il miglioramento della borsa dell'ultimo anno e la riduzione dello spread significativo, la ricchezza degli italiani si è molto incrementata, e quindi sono condizioni uniche per tornare a crescere nel paese. L'Italia è un paese che è alla frontiera secondo Padoan, la Grecia invece in questo momento è proprio un punto di svolta, secondo lei? Sì, è un punto di svolta la Grecia, ma a questo punto è bene così, perché l'incertezza non può durare in eterno, e quindi il momento decisivo del referendum sarà importantissimo per comprendere qual è il passaggio successivo, ma in ogni caso per le condizioni strutturali dell'Europa è un momento importante. Ecco, ci sono stati degli errori in passato, è possibile ancora rimediarli secondo lei dal punto di vista della Grecia? Siamo esposti a un contagio? No, secondo me non siamo esposti a nessun contagio, perché con il quantitative easing della BCE non c'è nessuna possibilità che ci sia contagio. Potrà aumentare lo spread di 20-30 basis points, ma certamente non abbiamo nessun tipo di rischio di contagio, e su questo sono tranquillissimo. Dal punto di vista degli errori non c'è dubbio che 4 anni fa aver trasformato l'1% del PIL e il 2% del debito nella crisi più drammatica per l'occupazione in Europa sia una responsabilità gravissima. D'altra parte anche l'austerità serviva a mettere in ordine i bilanci, ma per poter poi tornare a crescere. in Germania, dove questo esiste, cioè che il bilancio è in ordine e gli occupati crescono, la disoccupazione si riduce, quindi non significa che aver fatto austerità non possa portare occupazione. A questo punto bisogna innestare i motori per la crescita nel paese, e crescita che porti occupazione. Ecco, le misure che Padoan ha appunto annunciato, secondo voi sono sufficienti o sono necessarie altre? Beh, sicuramente sono misure molto importanti. Il caldo inizia a far sentire. No, c'erano molti temi nell'intervista che la nostra Anna Marino ha fatto con appunto l'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo, Carlo Messina, che riprenderemo anche con il nostro ospite dopo il metro pubblicità, per parlare del rapporto tra banca, in questo caso Cariparma, e piccole imprese, soprattutto piccole e medie imprese del settore agroalimentare. Però, visto che citavamo anche l'accordo fatto con chi rappresenta la piccola industria di Confindustria, che mette a disposizione un nuovo plafond di 10 miliardi di euro, che va ad aggiungersi ai 35 miliardi già stanziati negli accordi precedenti per crescita, innovazione, start-up, export e quindi internazionalizzazione. Si chiama Programma Filiere, e torneremo sul tema delle filiere anche nell'agroalimentare. Hanno già aderito 90 aziende capofila, il plafond in questo caso è pari a 5 miliardi di euro, un progetto che lo stesso presidente della piccola industria di Confindustria, Alberto Baban, ha definito strategico. Pone la questione di cosa serve, che tipo di credito serve e a che tipo di impresa. Quindi a noi la questione è di fornire il modello di impresa, invece al sistema bancario, in questo caso Intesa San Paolo, fornire una modalità di valutazione diversa, molto più qualitativa e meno quantitativa. Quindi ci prende tutti e due in considerazione per far emergere un nuovo modello. Il nuovo modello quindi vuol dire che è dimenticata l'era della difficoltà di accesso al credito? In realtà, diciamo, statisticamente questa cosa emerge ancora, però dimenticata l'idea che non ci sia disponibilità di credito. L'idea che bisogna costruire una modalità di accesso di merito di credito, quindi evidentemente comunque questa è una cosa nuova. In termini percentuali, di numeri, qual è stata la mortalità e la rinascita delle imprese in questo tempo? Abbiamo perso oltre 100.000 imprese, ci sono dei numeri incoraggianti per la ripresa, ma sa, l'Italia ha un numero di partite IVA incredibile, abbiamo quasi 5 milioni di partite IVA, quindi non è mai morta la voglia di fare impresa e l'imprenditorialità. È forse cambiato l'idea di che tipo di impresa può registrare nel mercato prossimo futuro. Funzionano meglio le medie imprese, spingiamo le piccole imprese attraverso sistemi aggregativi a diventare grandi quanto il mercato sente il bisogno di confermare questo tipo di dimensione. Attenzione, perché so che può sembrare un po' tecnico, ma ne parleremo anche dopo il meteo, ma veramente per non cadere nella dicotomia o niente credito o credito dato in maniera irresponsabile, il problema, la disponibilità c'è, il problema è merito di credito, non è un gioco di parole, cioè capire come si fa a ottenere credito in banca con progetti seri, se aiutano le associazioni di categoria, se aiuta la filiera, cioè quindi che tu sia posizionato in una filiera del valore o a monte perché fornisci la materia prima, il prodotto da lavorare o semilavorato, o a valle perché ti occupi della distribuzione, della vendita di questo prodotto. O sei anche in mezzo come fornitore o subfornitore, però se sei in questo devi ottenere maggior merito di credito, al di là delle parole, così come le associazioni di categoria nei vari settori possono fare molto anche per dare maggiori informazioni alle banche che delle volte non conoscono bene l'attività, bene vuol dire proprio nello specifico, nel dettaglio di chi viene a chiedere credito, così come delle volte chi viene a chiedere credito lo fa solo per visioni a breve, brevissimo, il circolante, il pagamento dei fornitori, il pagamento degli stipendi, e questo non è un gran merito di credito, diciamola così. Adesso c'è il metodo, la pubblicità, poi ne parliamo con chi presta i soldi nel territorio parmense, ma non solo, e per quello che riguarda le industrie dell'agroalimentare. Poi parleremo di Whirlpool, che è una buona notizia, visto che si è firmato l'accordo salva stabilimenti di farmindustria e di assicurazioni, e chiaramente anche di Grecia dopo la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Sì, continua il nostro viaggio nell'industria agroalimentare italiana, prendendo appunto spunto dalla presenza di Radio 24 a Cibus e Italia all'Expo di Milano, e dopo aver affrontato, lo ricorderete alcuni di voi, nei giorni scorsi temi di sistema, che cosa non va ancora in un'industria che comunque ha dal secondo apporto quanto export dopo l'industria meccanica all'export italiano, che però esporta ancora una quota rispetto al totale del fatturato più bassa non solo della Francia, la Francia arriva al 26%, ma addirittura della Germania, che arriva al 33% di export sul fatturato dell'agroalimentare. Nessuno poi poteva immaginare, o magari immagina, che la Germania sia così forte anche nel settore agroalimentare, perché non si associa, senza nessuna offesa per i tedeschi, a una qualità, una grossa produzione agroalimentare, ma i tedeschi sono molto bravi nell'industria alimentare, quindi nella trasformazione. Noi abbiamo invece una quota appunto del 20% dell'export. Su questo già nella prima puntata di questa settimana emergevano alcune difficoltà e la necessità di avere l'industria, intanto di smetterla con questa dicotomia: se sei industria alimentare non fai qualità. Non è vero, l'abbiamo dimostrato anche martedì raccontando due casi di eccellenza in chi ha volumi industriali 150-180 milioni di fatturato e dipendenti e dimensioni, ma punta estremamente sulla qualità. Dopodiché la grande industria alimentare serve anche come testa di ponte in certi mercati e serve anche per gli accordi con la grande distribuzione. Non possiamo cambiare un sistema che è fatto ancora molto di piccole e medie imprese. Cerchiamo di capire oggi invece che cosa può fare, possono fare altri attori, nel caso specifico il sistema bancario, per dare una mano ai grandi, e va bene, ma soprattutto ai piccoli e medi, anche come consulenza, anche come stimoli. Ringrazio quindi per essere nei nostri studi qui appunto all'Expo di Milano, al padiglione Cibus e Italia, il responsabile della direzione banca d'impresa, cioè quello che deve finanziare poi le imprese, per Cariparma Credi Agricola, Alessio Foletti. Buonasera. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, non è un mistero che Cariparma opera in uno dei distretti, forse il distretto, ma non solo, perché c'è la Barilla, perché c'è il Cibus, essendo qui non possiamo non citarlo, che è la più importante fiera dell'agroalimentare in Italia, se escludiamo il vino, che ha chiaramente come riferimento il Vinitaly. Dicevo, voi lavorate tutti i giorni in un territorio che è evocato all'agroalimentare, è considerato la patria dell'agroalimentare italiano. Le chiedo in primo luogo che cosa state facendo non solo sulle grandi imprese, i nomi lì sono, citavo Barilla, ma ne potrei andare avanti, ma anche e soprattutto sul tessuto di piccoli e medi imprenditori. È vero, si associa Cariparma giustamente alla Food Valley, ci chiamiamo ancora Cariparma, cioè Gruppo Credi Agricole, ma volevo anche sottolineare che siamo presenti, abbiamo una presenza nazionale, siamo presenti nelle 10 regioni che rappresentano più o meno, direttamente che rappresentano più o meno 75-80% del PIL, che rappresentano i 2/3 del PIL dell'agricoltura e l'80% del settore agroalimentare, quindi vogliamo giocare un ruolo che vada al di là del territorio in cui affondiamo le radici e in cui siamo nati. Per di più, sottolineavo, Gruppo Credi Agricole, quindi siamo parte di un gruppo internazionale tra le banche più solide al mondo, un gruppo che nell'agroalimentare, lo suggerisce anche il nome, ha uno dei suoi punti di forza, che è il primo nel retail banking in Francia, dove un cliente privato su tre è cliente Credi Agricole, ma due aziende su tre lo sono, ma soprattutto 9 agricoltori su 10 sono clienti di Credi Agricole. Quindi abbiamo expertise che sono certamente quelle degli, come vengono chiamati in Francia, ingegneri d'affaires, quindi che conoscono bene le filiere, la grande industria, la trasformazione, ma abbiamo una conoscenza forte, che vogliamo sia sempre più forte, anche dei piccoli produttori, dei piccoli agricoltori. Ecco, lei citava l'esperienza francese, poi ogni gruppo bancario è diverso, ne li abbiamo intervistati tutti anche quest'anno praticamente. Voi avete il socio, l'azionista di maggioranza che è Crédit Agricole, grosso, colosso bancario francese, ma come dice il nome, credito agricolo, da sempre opera in quella, in Francia l'agricoltura è una cosa seria, non che in Italia non lo sia, ma viene considerata seriamente anche dalla politica. E ha un grosso peso, diciamo, in Francia. I francesi sono maestri, non dico nel vendere fumo, se no offenderei i suoi azionisti, ma nel fare sistema, cioè nel mettere assieme le diverse componenti, il credito, il produttore, la parte pubblica, quindi la promozione, e presentarsi sempre in un blocco compatto. Ecco perché dico bravi nel vendere, non perché non ci sia la materia prima, ma perché sono molto bravi nell'esaltarla. Ecco, questa esperienza francese vi viene poi, in passi di termine, inculcata anche su base nazionale, oltre che regionale? Ci viene inculcata, ma partiamo anche dalle esperienze e dalle conoscenze nostre, dalla nostra storia. Quando lei prima parlava dell'export italiano e dell'export tedesco, l'export tedesco è il 33%, l'export italiano è il 20%. Se andiamo a guardare il valore aggiunto, però il valore aggiunto delle esportazioni italiane... Siamo più bravi. Ci viene riconosciuto, ma ci viene riconosciuto, a proposito di fumo, non solo a parole, ma ci viene riconosciuto nelle cifre. Il nostro valore aggiunto è più che doppio di quello tedesco. Noi dobbiamo riuscire a fare quello. Uno dei problemi che potremo vedere è l'assenza di vere piattaforme integrate di esportazione, salvo gli esempi che abbiamo citato. Partiremo sicuramente da Expo con Cibus. Collaboriamo in maniera forte, partecipiamo in fiere di Parma e abbiamo partecipato ad investimenti importanti che ne hanno qualificato sempre più la presenza. Però non voglio sfuggire alla domanda, che è quella, credo, che cosa facciamo anche per i piccoli. Parlare di filiera oggi rischia di essere quasi banale, ne parlano tutti. Noi abbiamo cominciato a approcciare 5 settori che sono il vino, il latte, le carni, i cereali e l'ortofrutta in questa maniera, vuol dire quindi partire dalla nostra capacità di comprendere, quindi fare formazione ai nostri, che non è la formazione sui libri di testo nelle aule, ma è la formazione sul campo, insieme alle aziende, insieme alle associazioni di categoria. Vuol dire poi scendere nel concreto ed elaborare insieme a questi attori quelli che sono i punti che andiamo ad esaminare quando esaminiamo una domanda di credito e quando ci muoviamo sul piano del favorire, diciamo così, le aggregazioni. Assicurare poi, sempre per stare sul concreto, tempi di risposta certi e l'utilizzo di un linguaggio comune che non può fermarsi. Neppure nell'esame dei bilanci delle grosse aziende ci dobbiamo fermare all'analisi del bilancio, ma a maggior ragione quando parliamo di piccoli operatori. Se parlo di un approccio integrato di filiera, parlo del fatto che nella filiera ci stanno i grossi produttori, i grossi trasformatori, chi sta alla fine, ma ci stanno i piccoli produttori e da lì dobbiamo partire, ci stanno i piccoli agricoltori ed è a loro che ci rivolgiamo con accordi specifici, con accordi con associazioni di categoria, con associazioni di produttori, con accordi con consorzi di garanzia che dalle associazioni di categoria si originano. Quindi utilizzate le associazioni di categoria, immagino con Confagricoltura, con Diretti, per avere degli accordi anche. La filiera, lo dico a chi scrive e a chi ascolta soprattutto, vuol dire semplicemente che una banca, detto in maniera un po' brutale, è più disponibile a darti credito se sa che tu sei fornitore oppure distributore in una filiera organizzata, se stai a valle, a monte o in mezzo, ma di una filiera, perché ha maggiori garanzie su forniture o su vendite, ha maggiori difficoltà a darti credito se sei un battitore libero, isolato. Però facciamo un esempio molto concreto, Folletti. Lasciamo stare il vino per un secondo perché ce ne occupiamo già ogni anno a Vinitaly, ma se io fossi un produttore del lattiero caseario oppure delle carni o dei cereali o della frutta, cioè gli altri settori su cui vi state operando, vengo da voi e chiedo una linea di credito per uno sviluppo futuro, perché sappiamo già, l'abbiamo detto mille volte, che se uno viene a chiedere i soldi solo per pagare i fornitori o per un contante, per il circolante interno, o a brevissimo termine perché è in sofferenza, la banca, a mio avviso, anche giustamente stringe i cordoni. Però se io vengo con un progetto, gli elementi su cui voi valutate il mio progetto quali sono? Senza entrare, chiaro che ogni progetto è diverso, ma ci saranno delle caratteristiche per cui voi fate scattare il segnale verde o il segnale rosso? Ce ne sono, non entrerò, come suggeriva giustamente, nei dettagli, ma volevo precisare un po' il concetto di filiera. Non è solamente il fatto che io faccio credito a qualcuno perché so che fa parte di una filiera e quindi in definitiva so che c'è qualcuno che comprerà il suo prodotto, so che c'è qualcuno a monte, se non è il primo operatore della filiera, che gli dà la materia prima, ma l'approccio di filiera vuol dire che io quella filiera conosco. Certo. Che quindi conosco come si lavora, conosco quali sono le rese nell'agricoltura, sono in grado di confrontarmi su questo, sono in grado di vedere, quando parlo di piccolissimi operatori, non ci dimentichiamo che in agricoltura oltre l'85% degli operatori non ha l'obbligo di presentazione di bilancio, quindi il discorso guardo solo il bilancio, guardo solo gli indici proprio non si pone, non ho una cosa da guardare, ma sono in grado di risalire agli elementi che mi fanno capire se nel momento in cui l'operatore, anche piccolo, mi presenta un progetto, genererà con il tempo i flussi di cassa necessari a ripagare il debito. Perché vorrei sfatare un po' anche un mito: le banche operano solo dove ci sono le garanzie. I debiti non si pagano col patrimonio, si pagano con i flussi di cassa. Vabbè, su questo non c'è dubbio, ci fermiamo un secondo, perché io però vorrei capire se vengo a chiedervi a questo punto 500.000 euro. Un milione di prestito, gli errori che non devo fare e che cosa magari vi impressiona. Scusatemi positivamente, traffico. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, dottor Folletti, ripetiamo l'esempio. Vengo da voi a Cariparma, sono un imprenditore del settore agricolo alimentare e quindi dell'agroalimentare e ho bisogno di 500.000, 1 milione di euro, una cifra un po' più vicina alle esigenze della piccola e media impresa. Che cosa non devo dire, ma soprattutto che cosa vi impressiona in maniera positiva? Cioè, al di là del caso specifico, del progetto specifico, non possiamo entrare troppo nei dettagli. Andiamo a vedere intanto che cosa conosciamo noi di quel mercato. Se non lo conosciamo, e molti mercati li conosciamo, se parliamo di mercati esteri il gruppo è presente in oltre 50 paesi con una presenza vera, andiamo a vedere se non lo conosciamo chi è che lo può conoscere, chi può essere il nostro compagno di viaggio. Con Sace per esempio stiamo sviluppando un'offerta per molte aziende presenti su Cibus e ci occupiamo prima di tutto della sostenibilità economica del progetto. Il resto viene successivamente, le analisi, i bilanci, e cerchiamo di capire la storia dell'imprenditore. La prima cosa che io devo capire è chi ho di fronte, devo capire che cosa gli serve il denaro che gli do e devo capire come me lo restituisce. Mi dica due errori che non dovrei commettere per concludere. Per concludere, presentare un progetto che fosse basato esclusivamente su sviluppo dei volumi fine a se stesso, oppure l'errore più frequente, e mi rendo conto che è difficile perché c'è un tema, come dire, di comunicazione fra le parti, ma essere vittima della paura che raccontando tutto la banca diventi sospettosa. La banca diventa sospettosa nel momento in cui capisce che ci sono delle cose nascoste che non vengono dette subito e che vengono poi magari scoperte nel corso. Ma è vero che un elemento discriminante è, insomma, la domanda, questo vale non solo per voi, insomma, come immagini la tua azienda fra 5 anni? Beh, certamente sì. Certamente sì. Da dove vieni e dove vuoi andare? Poi i 5 anni rischiano di essere di questi tempi un'era geologica. Ma che come immagini il tuo futuro, al di là delle cifre che mi scrivi su un business plan che qualunque foglio di Excel mi compila meglio di quanto possa fare io, è la domanda fondamentale: qual è la visione? E su questo ricevete anche dei silenzi ancora? C'è ancora indubbiamente un po' di diffidenza reciproca. Se racconto tutto alla banca, chissà che cosa penserà la banca, chissà se mi sta dicendo tutto, ma è lì che cerchiamo di uscire. Ma casi in cui l'imprenditore non avesse proprio immaginato se stesso fra 5 anni, fra 4 anni, ne avete avuti? No. Adesso non, sostanzialmente quando parliamo di progetti di sviluppo no. Certo. Quando parlo, noi finanziamo però anche il circolante, finanziamo anche gli investimenti in macchinari, il credito agrario di miglioramento che non è finalizzato a un processo specifico ma semplicemente al miglioramento della produzione, li finanziamo ugualmente, quindi non sempre parliamo di progetti di sviluppo ambizioso. Certo, ci piace parlare delle possibilità di andare all'estero, delle possibilità di sviluppare nuovi mercati, per riallacciarmi a quello che lei certo diceva all'inizio. Allora, grazie anche al responsabile direzione banca di imprese per Cariparma Credi Agricola, Alessio Folletti. Torneremo dopo le 18 su questi temi e prima della Grecia, però avevo promesso anche un aggiornamento sulla vicenda Whirlpool. Apple, nel senso che è la buona notizia del giorno, onestamente, una vicenda che si trascina da mesi. Lo sviluppo è più che positivo, lo possiamo dire tranquillamente, anche perché la notizia è che l'accordo firmato oggi prevede che non verrà chiuso nessun stabilimento italiano della Whirlpool, non ci saranno esuberi strutturali, erano 2000 quelli previsti in precedenza. Deve essere approvato ancora dai lavoratori, ma immagino che con un accordo del genere arriveranno i sì, e si voteranno negli stabilimenti tra il 13 e il 14 luglio. La nostra Anna Marina ha raggiunto Marco Bentivogli, segretario generale della FIM, che ha detto: abbiamo fatto un accordo importante che premia 2 mesi di lavoro, che hanno convinto poi gli americani, i proprietari della Whirlpool, a fare retromarcia. Arriva dopo 3 mesi di un'avvertenza durissima. I contenuti più importanti sono che il piano passa da un vero e proprio bollettino di guerra che prevedeva 2060 licenziamenti e 4 stabilimenti da chiudere a un piano che riduce e taglia drasticamente 2060 licenziamenti che saranno esclusi e punta su 513 milioni di investimenti. Dopo questo piano ci saranno delle intese locali su ammortizzatori sociali? Sì, questo che abbiamo sottoscritto è un accordo quadro. La gestione vera e propria degli ammortizzatori sociali verrà fatta in ogni singolo stabilimento con l'RSU e con specifici accordi territoriali. Quindi spetterà anche un ruolo, diciamo, al governo? Ma non solo al governo, spetta un ruolo anche alle regioni, a tutte le istituzioni che per la verità si sono fatte vedere solo in campagna elettorale durante questa avvertenza. Per cui, siccome abbiamo in Italia ormai solo 2 grandissime aziende multinazionali di elettrodomestici, bisognerà che anche il governo nazionale curi questo settore e assicuri prospettive di crescita e non di chiusure. Certo, tutto è possibile, tutto è migliorabile, però prendiamo anche le buone notizie che arrivano. Erano 2000 gli esuberi previsti dagli americani, la chiusura di alcuni stabilimenti e tutto questo viene bloccato, è una buona notizia. E poi giustamente il sindacato chiede anche prospettive di medio-lungo termine. Andiamo sul GR24, poi la borsa e poi Andrea Illy per continuare a parlare di come l'eccellenza italiana non rimanga semplicemente una nicchia o non riguardi solo alcuni gruppi, ma possono essere i marchi di eccellenza la testa di ponte per tutto il resto. Dicevo della borsa, chiusura in linea con quanto detto prima, meno 1,43%, intanto però GR24. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta qui dal padiglione Cibus e Italia alla Fiera Expo di Milano, all'Expo di Milano. Sulla borsa arriveremo tra un attimo, vi dico subito che la giornata è sostanzialmente come ve l'abbiamo raccontata in apertura: meno 1,40% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,75% Francoforte. Oggi il lusso non va bene, Moncler meno 3,50%. Lusso e, diciamo, largo consumo, autogrill meno 3%, Ferragamo meno 2,40% e ancora meglio invece altri titoli. Nel settore bancario poco mosso, tranne che su Unipolsai come assicurativo meno 3,40% e di nuovo Monte dei Paschi che perde il 3%, Unicredit meno 2%, Banco Popolare meno 2,44%, bene Saipem più 2,40%, Snam più 1,50%, ma insomma è inutile girarci attorno in queste sedute le analisi sulla borsa, sì, ci sono casi singoli, abbiamo raccontato di JP Morgan che è entrata, è il secondo azionista di Telecom Italia, lo si è saputo da comunicazioni Consob, è quasi al 7%, il titolo Telecom oggi cede l'1,60%, ma dicevo, tutti gli operatori sono in attesa di capire cosa succederà domenica in Grecia con il referendum. Euro poco mosso, sempre a quota 1,10, 1,11, 1,10,93 in questo momento. Continuiamo sul tema del nostro Made in Italy, perché se non approfittiamo di questi giorni e di una giornata in cui la Grecia fa meno notizia, se non ora quando. Si ragionava prima con Cari Parma di quello che possono fare le banche e in generale anche le associazioni sul territorio di categoria e quelle anche più specifiche. Una di queste, la più importante per quello che riguarda i 90, le 80 più note imprese italiane nei vari settori di punta del Made in Italy, si chiama Alta Gamma. Adesso non posso raccontare tutti i marchi che sono dentro. Hanno cercato di riunire le eccellenze nei vari settori, agroalimentare, vitivinicolo, ma non solo, moda, regno arredo. Il presidente è Andrea Illi, che come recita il cognome è anche amministratore delegato di Illi Caffè, ma in questo caso soprattutto è qui come presidente di Alta Gamma. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Ora, restando sul ragionamento che si faceva prima, voi potete venire visti in due modi: o come il club fortunato, il salottino fortunato delle 90, degli 80, degli 80 marchi e imprese più noti nel Made in Italy a livello mondiale, quindi bravi, belli, però insomma un po' limitante se si fa solo un club, oppure, tornando al ragionamento di prima, potreste avere un altro ruolo in un sistema nell'agroalimentare, ma non solo, che ha difficoltà sui piccoli e medi imprenditori a sbarcare all'estero per dimensioni, per costi, delle volte per mentalità, per mancanza di consulenza, per un sistema paese che fa difficoltà a essere, per un paese che fa difficoltà a essere sistema, potreste essere una testa di ponte. E di come è avvenuto, cito l'esempio del vino, dove superata la fase post metanolo, i grandi nomi del vino, le grandi aziende come dimensioni, come prodotti, hanno fatto da testa d'ariete in questo caso, sono entrati sui mercati e dietro poi si sono uniti anche produttori più piccoli, non di minor valore o qualità, ma semplicemente di dimensioni e visibilità più scarsa. Lei come lo immagina Alta Gamma? Beh, Alta Gamma rappresenta l'alta industria culturale e creativa italiana, con un numero di settori molto importanti, perché l'Italia è un paese leader naturale in questo comparto. Quindi ci sono i settori della moda, del design, dell'alimentare, dell'ospitalità, dei motori, della nautica, della gioielleria, della cultura, dell'immobiliare, insomma tutti i settori, e l'Italia è il paese con il più alto numero di settori presenti in questo comparto dell'alto di gamma. La fondazione Alta Gamma ha come missione quello di rafforzare la competitività del comparto e attraverso di ciò dare anche un contributo positivo allo sviluppo economico dell'Italia. Questo è un allargamento del nostro scopo strategico che abbiamo deciso di darci a seguito della crisi dell'euro nel 2012, e quindi in tal senso lavoriamo. E quindi non è un salotto buono, è un gruppo di imprese che è molto affiatato e che lavora innanzitutto tra di loro, sia all'interno della fondazione che con i referenti diciamo associativi dei relativi comparti, e nonché con il governo. Quindi noi sostanzialmente stiamo lavorando in questo periodo da circa 2 anni con un approccio di partnership pubblico-privata a tutto campo. E abbiamo un progetto che può essere considerato un simbolo, che è visitabile e auspico che quanti più possibili lo visitino, che è il Panorama, che è una bellissima esposizione che abbiamo collocato in Piazza Gaulenti, che è il luogo simbolo del rinascimento economico italiano. Panorama sono le tipiche installazioni dell'Expo fin dalla prima edizione dell'Esposizione Universale, solo che questo è il primo panorama video della storia. E l'abbiamo fatto per rappresentare la bellezza della natura, della cultura, della manifattura italiana, proprio con la finalità di, uno, dare un messaggio ai acquirenti, ai consumatori stranieri dell'heritage dell'Italia, che è molto più profondo, molto più ricco di quanto non possa apparire, e secondo, di dare anche una una grande, diciamo, sferzata all'orgoglio italiano e di rendere consapevoli di quanta bellezza c'è. Perché in effetti Panorama è un video circolare di 360 gradi, di 14 minuti, che mette assieme più di 300 siti di tutte le 20 regioni d'Italia, e quindi un lavoro straordinario che è stato fatto a cura del maestro Rampello. Arrivo al punto, perché è unico da questo punto di vista panoramica? Perché è una partnership pubblico-privata con il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi grazie a Carlo Calenda se ci ha creduto e sostenuto la causa. Assieme a lui ICE SIMEST, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano in rappresentanza di tutto l'artigianato locale, Camera della Moda con tutti i suoi soci, Federlegno, Salone del Mobile, Alta Gamma, più ancora partner tecnici Unicredit e Heinz. Quindi mettere assieme 10 partner così per un progetto che comunque ha una valenza istituzionale, che andrà in roadshow nel mondo intero, è stata un'opera magna, e questo le dà un'idea di quello che stiamo cercando di fare. Sì, stavo per chiedere appunto se, oltre che restare a Milano, dove ovviamente c'è l'Expo, poi lo porterete anche negli altri mercati. Qui è già a Venezia? È andato a Venezia da sabato e al padiglione dell'Acqua Venezia, e da lì comincerà, quindi è presentato in Italia in occasione dell'Expo, perché intercettiamo molti stranieri. Il progetto è nato per portare alta la promozione dell'Italia all'estero, e quindi ci sarà un itinerario che andrà in tutto il mondo una volta finito l'Expo. Quindi. Allora, per quello che riguarda sempre il vostro ruolo, qui inizio ad andare un po' a scavallare tra il suo ruolo come presidente di Alta Gamma e invece come delegato di Illy. Che cosa manca non ai nostri marchi più importanti, più conosciuti, non ai singoli, adesso vi cito Casaccio, Ferragamo, Illy, Ferrari, inteso come vini e quant'altro, ma a tutto il resto del comparto per fare il salto di qualità? Noi continuiamo a commentare dei numeri di ottimi dati sull'export, ma ancora insufficienti. Tutti voi riconoscete a Carlo Calenda, vice ministro, nostro ospite più di una volta, la capacità di conoscere la materia, ha fatto anche quello in Confindustria, gli sarà servito, diciamo così, a dimostrazione che quando la politica è preparata non può creare posti di lavoro, ma può creare le condizioni per uno sviluppo. Non lo crea lo sviluppo la politica, o se lo crea lo fa in maniera dannosa e esiziale. Che cosa manca all'intero comparto dei prodotti di qualità del Made in Italy? Ma io penso che ci siano due fattori principali, e con tutta probabilità sono interdipendenti, anzi senz'altro lo sono. Il primo è che l'Italia ha perso competitività al punto che l'anno scorso ha raggiunto la 49esima posizione sull'elenco della competitività del World Economic Forum, 49esimo, per quello che dovrebbe essere la quinta potenza economica mondiale. C'è un problema, anche sesta o settima, ma ed è un problema che ormai è strisciante e che non è risolvibile con un governo riformista nel giro di poco tempo. Quindi ci vorrà una azione di continuità proprio negli anni per dissodare il terreno da quello che ormai è un problema di burocrazia e di veti incrociati che in Italia saltano fuori da tutte le parti. Quindi questo è un tema molto serio. E il secondo, che è parzialmente interrelato al primo, è l'approccio, il modello di impresa in Italia, che è quello del modello di impresa dell'azienda familiare a conduzione familiare. Questo deriva da un approccio, diciamo, da un antropologico degli italiani, che sono individualisti e pertanto non si fidano del prossimo. Quindi gli imprenditori sono poco orientati a dotare la propria azienda di una governance, di aprire il capitale, di darsi di una struttura organizzativa che sia manageriale al di fuori di se stessi. E quindi sono aziende che sono purtroppo condannate a rimanere piccole e medie. Nel senso che la complessità nei mercati internazionali cresce esponenzialmente per frutto della globalizzazione, della crisi, dell'evoluzione dei mercati, delle tecnologie. Se cresce la complessità e questa supera la complessità dell'individuo che accentra su di sé la conduzione dell'impresa, a quel punto si ferma lo sviluppo. Ed è questo quello che succede, e molti di questi vendono, finiscono per vendere l'azienda o non crescere. Allora, sono temi che noi tocchiamo ciclicamente. La battuta viene facile, parla lei che però è amministratore legato di un'azienda di famiglia, perché l'ha creata il padre, che fu anche nostro ospite tanti anni fa. Allora la distinzione qual è? Perché si dice spesso il capitale può restare alla famiglia, il manager deve venire da fuori, non può necessariamente essere il figlio. Nel suo caso sembrerebbe non vero, ma le chiedo anche appunto una testimonianza su questo. Io sono imprenditore, quindi svolgo il ruolo di capo impresa come imprenditore, ma la struttura è totalmente manageriale di professionisti esterni. Il Licafè c'è una squadra di 17 dirigenti altissimamente qualificati che voglio dire si occupano dalla recommendation dei piani strategici fino alla loro execution, e quindi un'azienda che in qualche misura ha fatto il passo, ecco. Resti con noi perché adesso dopo il traffico ci colleghiamo con Atene, dove c'è la nostra inviata Valeria De Rosa. Voi avete una presenza importante anche in Grecia, questo mi permetterà anche di chiedere un'ultima cosa sui mercati internazionali. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. Allora, chiudiamo con Andrea Illi, mentre è in collegamento con noi da Atene, la nostra inviata Valeria De Rosa. Valeria, mi senti? Sì, ti sento bene. Buonasera. Buonasera a tutti, anche a te. Tu dici, cosa c'entrerà Illi con la Grecia? Beh, insomma, quanto avete di mercato in Grecia voi? Credo che avremo 30% della quota di mercato nel mercato dei bar, alberghi e ristoranti, quindi siamo la prima marca, sì sì, cioè, e continua ad andare forte malgrado la crisi. Ecco, quanto, posso, 30-40 posso confermare perché qui moltissimo adesso, viene, però, è la pubblicità, è la pubblicità si paga in questa radio, per cui buoni tutti, se uno vuole fare pubblicità li paga e ci sono gli spazi appositi, no scherzo, ma mica tanto, insomma. Allora no, perché la conferma di Valeria è importante, però quanto vuol dire il 30% in soldi? Nel senso che sono circa un mercato per noi di tra i 40 e i 50 milioni di euro, naturalmente con il nostro partner, e la marca è presente in almeno 10.000 pubblici esercizi. Allora, su questo, per chiudere, Andrea Illi, che cosa notate voi in Grecia e soprattutto se in un minuto riusciamo a raccontare quello che sono i mercati più dinamici, in questo caso come Illi Caffè. E quello che si nota in Grecia è semplicissimo, che c'è una totale dissociazione tra quella che è l'economia reale e quella che è l'economia ufficiale, e questa dissociazione permane, è stata l'origine del default e continua così, quindi in realtà nella vita vissuta le cose non sono così male come sembrano. Ecco, per quello che riguarda gli altri mercati, è una marca globale presente in più di 140 mercati. Molto semplicemente posso dire che il mercato più grande fuori dall'Italia sono gli Stati Uniti, e il mercato che cresce di più è la Cina. L'Italia purtroppo non ha ancora iniziato la sua ripresa dal punto di vista dei consumi del caffè, che sembra una battuta, ma attenzione che noi da sempre vorremmo sviluppare degli indicatori così molto prosaici e molto empirici. Il consumo del caffè, le vendite all'autogrill sono tutti elementi che ti fanno capire se i consumi sono ripartiti oppure no, sono elementi molto molto minori, ma vengono usati nel mondo anglosassone. Pensate al lipstick index, l'indice sull'utilizzo del rossetto o la lunghezza della gonna delle donne. Ma andiamo a ringraziare Andrea Illi, sia come presidente di Alta Gamma che come amministratore delegato di Illi Caffè. Valeria De Rosa, c'è questa differenza? Io dicevo l'altro ieri, basta con i servizi dei colleghi di fronte ai bancomat, che poi si scopre che l'unica coda c'era perché si era rotto, si era infilata una carta dentro. Al di là della retorica, come vivono i greci? Perché tanto oggi notizie non ce ne sono, se non Varoufakis, allora, che dice che si dimetterà se vincono in sì, l'avevamo capito anche noi. Vai Valeria. Dunque, in realtà io questa diversità con l'economia reale non l'ho notata, nel senso che qui la gente vive male. È vero che le file ai bancomat non sono così eccessive, così come le mostrano anche alcune TV straniere, perché stamattina io guardavo le immagini della BBC, mi sono precipitata in strada perché ho detto adesso troverò chissà quanta gente in coda. La coda più estesa che ho trovato era composta da 8 persone. Vabbè, quindi diciamo che Italia, tutta questa folla ecco, non c'era, e c'era anche una certa calma nel far entrare i pensionati, perché anche oggi gli istituti di credito hanno aperto per permettere a chi ha la pensione ma non ha una carta, non ha un banco, ma di prelevare un po' di contante. Detto questo, al momento in Grecia sono esauriti i biglietti da piccola taglia, quindi non ci sono più né 10 euro né 20 euro, si può prelevare solo 50 euro. La gente qui, come dicevo, non vive bene. Io rispetto a gennaio ho visto almeno il doppio delle persone che dormono per strada. Questo vuol dire che sicuramente un peggioramento c'è. Certo. Avevi fatto, uno dei motivi per cui sei l'inviato, avevi già fatto un reportage per Radio 24 a gennaio, oltre che vari collegamenti, è importante anche quello che stai raccontando sulla differenza in soli 6 mesi. Prego Valeria. Sì, dicevo che sicuramente la differenza si avverte, si nota. Al netto di questo, Atene resta una città molto composta, molto pulita e ordinata, ovviamente in centro, ma questo va da sé. Anche nelle zone più periferiche resta una città che mantiene un suo ordine. Quello che si respira in città è sicuramente attesa, sì, ma anche una certa delusione. E poi tutti parlano solo di questo referendum e solo di quello che poi succederà. Tant'è che oggi mi sono imbattuta nella discussione che un professore, che poi ho scoperto essere un professore di economia, stava tenendo con una commessa. Parlavano in greco e quindi io ascoltavo così, giusto perché mi piace molto il suono della lingua greca. E poi ho scoperto essere invece un professore che insegna in Australia. Peter Michelson, sentiamolo. Well, what I was saying is that the Greeks should vote no. Beh, dicevo che i greci dovrebbero votare no, perché dal momento che voteranno no saranno in grado di prendere in mano il proprio destino. In questo momento il loro destino è dettato da Bruxelles, non solo la loro politica economica. Penso che Bruxelles sia quasi come un dittatore che impone ai greci impoveriti una metodologia che non li tirerà fuori dal debito, né ora né mai, non fino alla prossima generazione. Non ci saranno risultati nei prossimi 5 anni, sarà molto dura. Anche Stiglitz ha detto che il no è la scelta giusta e io sono d'accordo. Non posso non essere d'accordo col governo che incoraggia a votare no. Se le cose rimangono come sono, ceteris paribus, come si dice in economia, niente cambierà. Ecco, questa opinione non è un'opinione di pochi, molti qui sostengono questa cosa, anche se non tutti ritengono di dover tornare alla dracma. E poi moltissimi sono gli indecisi, anche nella classe medio-alta. Questo diciamo che è un elemento di novità, perché si poteva immaginare che invece l'alta borghesia avrebbe aderito in massa al sì. Non è così in questo momento. Beh, insomma, mi sembra che gli elementi empirici valgono sempre in maniera appunto non statistica, però ci sono tutti. Da un certo punto di vista, la battuta al professore di economia greco ma che vive in Australia è facile dirlo, perché poi tutto in Australia, però in realtà anche i sondaggi poi oggi subito ritirati, perché l'istituto di sondaggi ha smentito di averlo fatto, davano i sì al 47, i no al 43. Siamo veramente testa a testa su questo. Per il resto, Valeria, su tutti gli altri elementi continua a raccontarci anche domani, perché ripeto, le dichiarazioni di Varoufakis oggi erano di una banalità assoluta. È ovvio che se dovessero vincere i sì, con il significato politico che il governo di Tsipras ha dato a questo referendum, e non certo tecnico, perché non sappiamo ancora su cosa si vota, Tsipras avrà un grosso problema e forse arriverà alle dimissioni. Intanto grazie anche alla nostra Valeria De Rosa in collegamento da Atene. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che come il resto dei programmi della radio, la maggior parte dei programmi della radio, sarà in diretta dall'Expo, da Cibusè Italia, anche domani per l'ultima puntata della settimana. Poi ci rivedremo all'Expo con minor caldo nel mese di settembre. Un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.